falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Questa è una storia italiana di emancipazione dalla povertà. Questa volta è dalle stalle alle stelle e dalla povertà assoluta di una baraccopoli al firmamento delle stelle del cinema. Cinecittà, non Hollywood, bucatini alla matriciana, non hamburger, ma comunque un sogno. Non il sogno americano, ma il sogno italiano che a volte è realizzabile. È la storia dell'attore preferito dal grande Pierpaolo Pasolini, Ninetto Davoli. De Roma nostra semo e Limoretti, semo romani e in più tre steverini, Moluppetti semo i più perfetti, cantavo tutti e semo ballerini. La romanità, quella che racconta Gabriella Ferri nella canzone che state sentendo in sottofondo. Siamo a Trastevere, quartiere dalle profonde radici popolari, però molto diverso dalla parte di Roma dalla quale inizia invece la nostra storia. Sì, perché le radici di Giovanni Davoli, detto Ninetto, affondano in una Roma diversa e più che periferica. Le baracche, avete presente il film con Manfredi, Brutti, Sporchi e Cattivi? Ecco, quello era un'esasperazione, però lo scenario, diciamo, è quello: la povertà assoluta, le fogne a cielo aperto, la Roma di Borghetto Prenestino, che un nome che sembrerebbe il nome di un quartiere residenziale, e invece non è così, come racconta un vecchio documentario degli anni 60. Ma chi si è mai occupato, chi si occupa, chi sa che Roma è anche al Borghetto Prenestino? In nessuna guida troverete questa località. Questo non è un quartiere, non è un borgo, non è nemmeno un borghetto, anche se così lo chiamano. È un'ulcera della città, un ghetto. Guardate queste baracche. Immaginate senza tremere di viverci dentro. Viverci, in proprietà delle parole, potete ammettere che questo sia vivere, chiusi da un recinto di reti metalliche, una fontanella ogni 400 persone, senza fognature, scoli di acque luride nei diottoli, interni da Corte dei Miracoli, tutto questo a 6 km dal Campidoglio. Un'ulcera della città viene definita dal giornalista la baraccopoli del borghetto prenestino. In realtà Ninetto non è nato a Roma, è nato a San Pietro a Maida, siamo in provincia di Catanzaro, è nato l'11 ottobre del 1948, però cresce lì, in un posto, non lì a San Pietro, lì al borghetto, in un posto senza acqua corrente, senza fogne, dove si mangia quello che si riesce a rimediare, lo ha ricordato lui stesso in un'intervista recente. E la casa in realtà è una baracca con una sola stanza da dividere con i genitori e i fratelli, con il recinto attorno. Ninetto comunque è un ragazzino simpatico, è sempre sorridente, ha la classica parlata romanesca. L'incontro fondamentale della sua vita avviene quando lui è ancora un ragazzino, non ha neanche 15 anni. Il fratello ha trovato un lavoro come falegname sul set di un regista che ambienta le sue storie nella campagna romana, nei borghi di periferia. Questo regista è Pierpaolo Pasolini e lui sta girando un film, o meglio la sua parte di un film a episodi con altri tre registi, Rossellini, Godard e Gregoretti. Ed ecco Davoli che ricorda così questo incontro. E mi è capitata questa fortuna di conoscere Pierpaolo casualmente mentre lui stava facendo la ricotta. Guarda caso c'era mio fratello che faceva quello che costruiva le scene, il macchinista. Dice: ecco via che te presento il regista. Stavo con lui, mi fa, dice Pasolini, dice questo è Ninetto, dice Nini, questo è Pasolini. Then you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week you know that this will be the Saturday, you're reaching your peak, stopping on a rail. La ricotta, che è un episodio meraviglioso, poeticissimo, di questo film a episodi, in cui la parte della ricotta era diretta da Pierpaolo Pasolini. Lui, Ninetto, impersona perfettamente, senza neanche dover fingere, quell'energia del sottoproletariato che Pasolini insegue, dalla quale Pasolini era molto affascinato, la gente povera della borgata senza speranza, e Pasolini la vuole raccontare, e lui stesso descrive questa sovrapposizione che c'è tra Ninetto e il mondo che lui rappresenta. Mettiamo i suoi ricci, i suoi occhi, l'espressione dei suoi occhi, i suoi lineamenti, come veste, come si cammina, come muove, come si muove, come sorride, che azioni fa camminando, mi dicono da loro stesse, senza bisogno di nessun altro linguaggio scritto o parlato, chi egli è lui. Lui è affascinato dalla forza vitale di Ninetto, dal suo sorriso, dalla sua giovinezza. Pasolini ha già compiuto 40 anni. Qualcuno ha scritto che Ninetto è l'unica persona che in qualche modo è riuscita veramente a influenzare, cambiare, farsi amare dal poeta e dal regista. E comunque questo rapporto porta via Ninetto dalla povertà, esce da quel ghetto. Non solo dal punto di vista, come dire, del riscatto economico, lui comincia a conoscere gente come Alberto Moravi ed Elsa Morante. Pasolini lo porterà addirittura dalla madre, ma spesso sarà lui a andare nella baraccopoli dove Ninetto vive, quasi a volerne condividere le origini, le difficoltà. E in questo spezzone c'è un giovanissimo Ninetto Davoli che chiede a Pasolini perché ami raccontare quella realtà di povertà e di degrado. Ma perché, per esempio, tu quando fai film come A Cattone, Mamma Roma, a girare in posti, come ad esempio qui in casa mia, i posti qui del Borgata? Guarda quei ragazzini, guardali bene. Ti sono più simpatici questi ragazzini qui, oppure dei ragazzini che siano quelli che tu chiami figli di papà? Sono più simpatici questi qua. Beh, io ero un figlio di papà. Io sono stato, purtroppo, sono stato un figlio di papà. E ho conosciuto un mondo che non avevo mai conosciuto. E ora qui c'è un mondo caratteristico, particolare, speciale. È il terzo mondo. Sai che cos'è il terzo mondo? No, di la verità. Che cos'è? Mi fate le domande. È il mondo, appunto, preindustriale, come l'Asia, l'Africa, l'America del Sud. E beh, il terzo mondo comincia qui, vedi, dove sono quei ragazzini lì, da lì verso l'Africa, verso l'Asia, c'è il terzo mondo. Una delle grandi intuizioni di Pasolini è quella che bisogna trovare il terzo mondo anche qua, ce l'abbiamo di fronte, a volte senza per forza dover andare a pensare a paesi lontanissimi. E lui vuole l'energia di Ninetto e piano piano lo coinvolge nei suoi film, gli affida una comparsata nel film Il Vangelo secondo Matteo del 64 e lui interpreta un pastorello. Ninetto non ha voglia di darsi da fare nel cinema, però Pasolini lo stimola. Il film Il Vangelo secondo Matteo procurerà peraltro censure, processi, problemi vari al regista. Dentro ci sono altri amici di Pasolini, Natalia Ginzburg, Enzo Siciliano, ma anche Susanna, la madre di Pasolini, nella parte di una Madonna avanti con gli anni. Però per Ninetto è solo una prima esperienza. Presto Pasolini gli propone un ruolo da coprotagonista e il film è del 66 e si intitola Uccellacci e Uccellini. Uno che ama la vita violenta è invece Pierpaolo Pasolini. PPP parte da Fiumicino con il suo ultimo discepolo, tale Ninetto Davoli, di Trastevere. Ninetto è il protagonista dell'ultimo film di Pierpaolo che si chiamerà Uccellacci e Uccellini. Pasolini vuol mantenere il più completo mistero sul suo film, così nessuno è riuscito a scoprire se Ninetto sia l'uccellaccio o l'uccellino. Io sono Ninetto, di innocenti Totò e di semplicenti grazie. Beh, malgrado il tono un po' supponente di questo giornalista, il film poi si rivelerà un capolavoro. Tra l'altro, il coprotagonista di Uccellacci e Uccellini è un certo Totò, quindi insomma il film è veramente destinato all'Olimpo. Ne parleremo tra poco. Il Falco e il Gabbiano. Ninetto Davoli, stiamo raccontando intanto la sua uscita dal ghetto delle baraccopoli romane degli anni 50 e poi la sua emancipazione dalla povertà e la costruzione di una carriera al cinema e in TV. Tra l'altro negli ultimi tempi in qualche modo la bravura di Ninetto Davoli è stata riconosciuta, recentemente gli hanno dato il nastro alla carriera proprio quest'anno. Il nostro racconto riprende dagli anni 60, quando Pierpaolo Pasolini, dopo avergli assegnato un ruolo da comparsa nel Vangelo secondo Matteo, propone a Davoli il ruolo da coprotagonista in Uccellacci e Uccellini, a fianco di un mostro sacro del nostro cinema, Antonio De Curtis, Totò. Ci mette un po' a convincere Ninetto, perché non gli chiarisce che verrà pagato un paio di milioni per fare il film, e un paio di milioni a metà degli anni 60 sono un'ottima cifra, anche tenuto conto insomma della piattaforma di partenza. Un ragazzo che la carne la vedeva forse una volta al mese, e un paio di milioni la vita un po' te la cambiavano in quegli anni. E Davoli ha raccontato così la sua prima reazione alla notizia. Mi pagano per lavorare con Totò? Beh, insomma, a me sembrava una cosa talmente assurda, talmente, diciamo, fuori dal mondo, che mi davano dei soldi per andare con un attore che io onestamente andavo a vederlo al cinema. Andavo lì, compravo i bruscolini e mi guardavo Totò. Rapporto tra Ninetto Davoli e il grande Totò negli ultimi anni della sua carriera, della sua vita, è amichevole, quasi paterno da parte del grande attore napoletano. Lo aiuta. Ninetto per la prima volta è veramente alle prese con le battute e i copioni, lo consiglia, lo tratta con gentilezza e pensate che il primo incontro, come spesso ha raccontato Davoli, non aveva fatto presagire una relazione serena tra il figlio della borgata e il principe. I due si incontrano nella casa romana di Totò ai Parioli, perché Pasolini vuole che si conoscano, che trovino del feeling prima di lavorare assieme sul set. Bene, Ninetto, che è ancora abituato alle baracche del borgo prenestino, rimane sconvolto dal vedere quel palazzo grande pulito. In quell'occasione racconta lui stesso, scopre l'esistenza dell'ascensore che non aveva mai visto prima, e quando i due bussano alla porta gli apre Totò in persona, elegantissimo. Davoli, forse per l'emozione, scoppia in una risata isterica, una risata incontenibile, imbarazzando Pasolini. Il resto del racconto lo ascoltiamo dallo stesso Ninetto, da una vecchia trasmissione TV con Raffaella Bonfiglioli. C'è stava lui e la moglie, no? E a un certo punto dice: andiamo nel salotto a prendere il caffè. Dove ho mangiato, ci siamo messi lì seduti al salotto, io e il regista e Totò a fianco, un'altra poltrona, e ti dico: siamo stati lì, abbiamo parlato del film. A un certo punto andiamo via da sta casa e via. Dopo qualche giorno, tu pensa che la Faldini, la moglie di Totò, mi fa, dice: Janine, ma dice, tu sai quella sera, dice, che sei venuto con Paolo a casa, dice, per parlare del film, dice, che è successo? Dico: no. Cioè, tu pensa che Totò è stato così talmente abile di correre allo sgabuzzino, di prendere una bottiglia di Sprite, di DDT, e spruzzarlo dove stavi seduto te, proprio. Ah, papà, a me mi sa che la vita non è niente. Beh, certo, la morte è tanto. Quando lei è morto, tutto quello che doveva fare, la bella è fatta. Nasce quasi una coppia, perché con Totò Ninetto Davoli lavora anche nel La terra vista dalla luna, che è un episodio del film Le streghe del 67, e poi in Che cosa sono le nuvole, che è un altro episodio, questa volta del film Capriccio all'italiana del 68. Quello con Pasolini non è solo un sodalizio artistico, il regista lo porta con sé ovunque. Gli compra vestiti, si fa accompagnare a cene, incontri con i suoi amici intellettuali, dai quali Ninetto è lontanissimo sotto ogni punto di vista. Lui rimane sempre se stesso malgrado questo cambio di vita e di abitudini. Ha anche perché ha un'ammirazione sconfinata per Pasolini, per lui, per il mondo che rappresenta. Dopo 9 anni di vita praticamente assieme c'è una svolta. Ninetto conosce una ragazza, se ne innamora, decide di sposarla ed è una decisione che è in qualche modo sconvolge Pasolini, che scrive così a un amico: sono quasi pazzo di dolore. Ninetto è finito. Dopo quasi 9 anni Ninetto non c'è più. Ho perso il senso della vita. Penso soltanto a morire o cose simili. Tutto mi è crollato intorno. Ninetto con la sua ragazza disposto a tutto, anche a tornare a fare il falegname, senza battere ciglio pur di stare con lei. Ed io, incapace di accettare questa orrenda realtà che non solo mi rovina il presente, ma getta una luce di dolore anche in tutti questi anni che io ho creduto di gioia. Beh, uno spaccato del rapporto tra Pasolini e Davoli si intuisce anche nella lettera che un'amica famosa del poeta, Maria Callas, scrive a Pasolini per consolarlo. È un'amica sincera che svela come la fine della storia con Ninetto fosse in qualche modo già scritta. Sono infelice per te, ma contenta che ti sei confidato in me. Caro amico, sono infelice che non posso essere vicina in questi momenti difficili per te, come lo sei stato tu spesso con me. Tu sai bene, in fondo, che sarebbe andata così. Ti ricordi a Grado, in macchina? Si parlava con Ninetto di amore. Le mie antenne me lo dicevano quando Ninetto diceva che non si innamorerebbe mai. Sapevo che diceva delle cose che era troppo giovane per capire. E tu, in fondo, uomo tanto intelligente, lo dovevi sapere. Invece ti attaccavi anche tu a un sogno, fatto da te solo, perché è così, anche se ti addoloro con questa predicuccia piccola. Nonostante la scelta di Davoli di sposarsi, lui e Pierpaolo Pasolini continuano a frequentarsi per i loro progetti lavorativi. E Davoli girerà 9 film del regista bolognese, l'ultimo dei quali Il fiore delle mille e una notte. La sera prima dell'omicidio di Pasolini, per esempio, i due sono assieme in un ristorante romano, Il Pomidoro, e sarà Ninetto Davoli a dover riconoscere legalmente il cadavere martoriato di Pasolini. È il 2 novembre 1975, è lui che ne veste il corpo per l'ultima volta facendogli indossare una maglia da calcio con il numero 10. Quella mattina Davoli, insieme ad altri amici della vittima, viene assediato dai giornalisti che gli chiedono il classico e assolutamente fuori luogo commento a caldo. Ieri sera siete stati insieme in un ristorante? Da un Pomidoro. E poi Pierpaolo è andato via per conto suo? E poi ognuno ha preso la strada per conto suo. Paolo sta andando a casa, io sono andato a casa mia. Senta, lei ha lavorato a lungo con Pasolini, è stato uno dei suoi attori. Ci faccia un brevissimo ritratto. Chi era Pierpaolo Pasolini? Era per me una persona che non ci so parole, guarda. È una grande, ma grande persona. E soprattutto la più buona del mondo. Un colpo durissimo, ma comunque per Ninetto Davoli la vita artistica continuerà anche dopo la morte di Pasolini. Ne parliamo tra poco. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Antonio Davoli, Ninetto Davoli, l'attore preferito da Pierpaolo Pasolini, che lo scoprì da ragazzo e gli permise intanto di emanciparsi dalla povertà e poi di conoscere intellettuali come Alberto Moravia e quindi di, come dire, irrobustire la sua anima e quindi di avere una carriera artistica che dura ancora oggi a 40 anni dalla scomparsa di Pasolini. È Eh sì, perché Ninetto Davoli ha interpretato intanto 9 film con Pasolini, il rapporto era strettissimo, fu lui a dover identificare il corpo di Pasolini quando il suo cadavere venne ritrovato sul litorale romano. È un delitto con tante ombre, con tanti lati oscuri che forse un giorno esamineremo assieme. La carriera di Davoli continua anche dopo quel 2 novembre 75, quando Pasolini viene ucciso. Davoli arriva anche in televisione. È il periodo di Carosello. Nel 72 la Saiva lo sceglie per interpretare il fornaio Gigetto. Vi ricordate il fornaio che zigzagando con la bicicletta, con i cesti del pane, cantava a squarciagola i brani dell'epoca? Mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola, poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Dal vostro fornaio ci sono tanti tipi di pane e c'è il nuovo pane Crackers Premium Saiva, e in ogni pacco ben pieno ce ne sono tantissimi, più di 60. Perché la Saiva sa che non ce n'è mai abbastanza di un cracker che vi dà tutto il sapore, l'anima del pane. Dalla Saiva, il vostro grande fornaio. E sono andato avanti fino a che sono esistiti i caroselli. Diciamo dal 72 ancora, mi sembra per 4 anni, ho fatto i caroselli. Ma io sono andato avanti sempre con questo spot fino all'83. Cioè, in pratica l'ho fatto, 11 anni, di pubblicità. Insomma, una specie di testimonial per oltre un decennio, però a differenza di tanti altri attori, lui non ha mai rinnegato quel periodo e anche le opportunità economiche che il mondo della pubblicità gli ha dato. Da un punto di vista economico, altro che, cioè per me, onestamente, i caroselli sono stati fondamentali. Fondamentali perché comunque, malgrado che io lavorassi a fare anche cinema, i caroselli mi hanno dato quella sicurezza che ogni anno porta. Io quei caroselli onestamente mi sono comprato casa, è stato un bel introito, questa è una cosa che mi ha fatto molto comodo. Ho sempre chiesto a Pasolini, dicevo, tutto ciò che io ho fatto, perché mi fidavo di Pierpaolo. E chiaramente ho detto a Pierpaolo: papà, ma che dici? Guarda che dice, ma che storia è? E infatti Giulio Pradesi mi diede una specie di sceneggiatura che, guardandola insieme con Pierpaolo, dice, però tutto sommato, dice, Ninetto, sono belli, sono carini, sono, se tu li fai a modo tuo, gioiosi e carini come sei tu, perché no? E Pierpaolo, quando sono usciti, si divertì da pazzo, perché erano troppo belli. La carriera cinematografica di Davoli vede, oltre a Pasolini, un altro sodalizio longevo e fruttuoso, quello con Sergio Citti, che è un vecchio collaboratore del regista bolognese. E con Citti Ninetto gira Ostia nel 70 e molti altri film tra il 73 e il 96, Storie scellerate, Casotto, I maghi randagi, Il minestrone. Nel cast del minestrone, accanto a Ninetto e a Franco Citti, il fratello di Sergio Citti, c'è anche un giovane che si chiama Roberto Benigni. Sì, sì, è lui, il maestro, quello che prima magna e poi scappa. Buonasera, buonasera maestro. Buonasera. Ha mangiato? Ha cenato? No, non avevano il salmone mantecato. E poi qui hanno una cucina troppo pesante, troppo condita. A me mi piacciono i ristoranti con una cucina più semplice e più genuina. Questo va bene, maestro. No, questo è macrobiotico. È straniero? No. Macrobiotico, qui mangiano anche in piedi, tutta roba verde, insalata verde, carote verdi, cetrioli verdi, sedani verdi, poi certe diarree. No, non è per me. Davoli passa da un film all'altro, dividendo lo schermo con altri personaggi di grido in quel periodo. Per esempio nel film di Sergio Corbucci, Er più, storia d'amore di Coltello, è al fianco di un po' improbabile Adriano Celentano che parla in romanesco. La cosa più notevole del film forse è proprio quella, Celentano che parla romanesco. Anilo, che fa da ste parti? Sono venuto a controllarsi per caso non hai cambiato parrocchia. Andiamo, ti devo fare un discorso serio da uomo a uomo. Ma che sta di Anilo, non ti capisco. Me capisco io. Totarei a me non mi freghi. Frocio non sei, impotente ne manco. Allora che è sta storia che ti fidanzi ufficialmente con mia sorella, fai fare le pubblicazioni in chiesa e poi ti metti a far pesce frascico. Te credevo un uomo d'onore, degno di imparentasse col più de borgo. Allora dillo chiaramente, cerchi a lite. Ma quella lì, Danino, ma te pare che muoia appiccica con la cortellata? Con Corbucci Davoli lavorerà anche nei primi anni Ottanta per il Conte Tacchia con Enrico Montesano, e proprio negli anni Ottanta viene tentato dal prolifico filone delle commedie sexy, quelle con la Fenech, Nadia Cassini, Le belle donne viste dal buco della serratura. Partecipa a un caposaldo della serie, L'Alice Ale seduce i professori, con Gloria Guida. Nel cast con Davoli ci sono gli immancabili Alvaro Vitali e Lino Banfi. Ma perché proprio a me doveva capitare questa famiglia? Non basta una moglie disgraziata che mi lascia e se ne va? Mi lascia in eredità un cognato mangiapane a tradimento! Papà, te l'avevo detto io, non te la sposare, che quella c'ha un fratello balordo. Ah, bella gratitudine, questo è perché ti faccio da madre. Sì, da madre. E tu lo sai bene perché sono rimasto, eh? Perché io disapprovo mia sorella. No, perché tu mangi e bevi qua dentro, questa è la verità santa. E che sono stronzo? Tu no, indovino un po'. E c'è anche la televisione, a parte la pubblicità. Negli anni 70 Davoli è il protagonista nello sceneggiato Le avventure di Calandrino e Buffalmacco di Piero Pieroni e Carlo Tuzzi, e nel 79 è la volta di una commedia musicale con canzoni in romanesco dal titolo Da venì quel giorno e quella sera, e assieme a un'altra grande, Adriana Asti. E così Ninetto Davoli si toglie anche la soddisfazione di collaborare con Antonello Venditti. E questa terra che non m'aiuta mai, e questa gente sua esperienza di attore, anche con Pasolini, la vena più sfruttata di Ninetto comunque quella comica, la commedia magari amara, però sempre commedia. Ma sono i ruoli tragici, come spesso accade agli attori comici, a dare a Ninetto Davoli una nuova carriera e i primi riconoscimenti dopo decenni di cinema. Così nel 2007 arriva un ruolo drammatico nel film di Eugenio Cappuccio, 1 su 2. Interpreta Giovanni, un uomo solo e malato che il protagonista, che è Fabio Volo, incontra in una corsia d'ospedale. Dei lavori di Davoli negli ultimi anni parliamo con una vecchia conoscenza, il critico della trasmissione di cinema di Radio 24, La Rosa Purpurea, Boris Sollazzo. Boris, gli ultimi anni sembrano avere dato vera dignità di attore a Ninetto, non solo più simbolo del cinema di Pasolini. È così, no? Beh, decisamente sì, perché Ninetto Davoli prima era uno splendido strumento, certo, però in qualche modo qualcosa che veniva usato per la sua fisicità, per la sua spontaneità. Vero. Veniva portato al cinema con tutta anche la sua esperienza, e quindi diventava un attore del reale che diventava un attore cinematografico. In queste vicende, pur non trovando un autore straordinario come Pasolini, lui dimostra invece la sua anche struttura di attore, oltre che il suo talento di attore. Non a caso fa più o meno sempre lo stesso ruolo nei film di Pasolini, mentre nell'epoca moderna, nella vecchiaia, lui costruisce diversi personaggi. Appunto, penso a Cemento Armato, il meccanico buono, penso a 1 su 2, in cui fa un ruolo difficile, un ruolo intimista, e poi c'è Senza nessuna pietà, dove invece è un cattivo a tutto tondo. Boris, senti, ti chiedo un giudizio conclusivo sul valore artistico di Davoli, perché abbiamo visto che comunque dopo dopo la morte di Pasolini ha lavorato tantissimo, senza sosta, in questi 50 anni. Allora, è un attore vero o è solo il simbolo del cinema di Pasolini? No, assolutamente. Questa parte finale ci consegna forse l'ultimo tassello di un puzzle. Lui è cresciuto tantissimo, ma anche del periodo d'oro, tra virgolette, del periodo degli inizi. Inizi, certo. Spesso si dimenticano le cose straordinarie che lui fa per Citti, perché nelle etichette che si vogliono dare al cinema, appunto, da Davoli e Pasolini, ma Davoli è tantissimo, Davoli è l'attore di Genere, di Laurenti, di Crispino, di Corbucci, addirittura di Steno. Lui è stato davvero per lungo periodo un operaio del cinema, ha affrontato il cinema con umiltà, aveva un viso che poteva andare da solo, invece ha studiato, ha imparato, e in fondo, pensiamoci, uno che aveva cominciato con Pasolini poteva forse darsi un tono diverso. Indubbiamente. Sarebbe potuto essere un grandissimo attore se forse avesse avuto un po' più di presunzione in più, però ci ha raccontato una storia fatta di tantissimi film che è bellissima. Grazie Boris Sollazzo. Ninetto Davoli, sposato dai primi anni 70, vive ancora a Roma nel quartiere di Cinecittà, ha due figli, è un accanito tifoso della Roma, lo sanno tutti. Quest'anno gli è stato assegnato il nastro d'argento alla carriera, un premio assegnato dal sindacato dei giornalisti cinematografici per il suo mezzo secolo passato sul set. Una carriera particolare, iniziata tra le baracche di una borgata con un incontro importante e con quello con Pasolini, e con tanti piccoli colpi d'ala che l'hanno portato lontano dalla povertà. Ci sono storie a volte sconosciute di persone che hanno saputo darlo questo colpo d'ala, e anche se in partenza Ninetto Davoli è stato aiutato inizialmente da un grande come Pierpaolo Pasolini, poi ha dimostrato ampiamente di sapersi meritare quella inizio con un nome tutelare al fianco. Se avete altre storie da segnalarci, fatelo, magari scrivendo al Falco il Gabbiano chiocciola Radio24.it o venendo a cercare tutti noi, me compreso, nei nostri social. Se volete mi trovate. Ciao, a domani. È un cuore affranto, si cura con l'udito e tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.